atti reiterati di scarsivizione. Insazietà mi spingono a salire sul pulpito per inveire contro neofascismo. Schiavo del metallo, libero professionista, ostenta quel che ha attentamente costruiti, identità superficiali, piedi nella melma, le mani e denaro. Non mi fido, non mi fido, non mi fido, non mi fide, non mi fiderò. Non mi fido, non mi fiderà, non mi fido, non mi fido, non mi fido, non mi fido, non mi fido, non mi fido, non mi fiderà di un millantatore che pronto a stenderti pubblicamente per salire su di te. Chi vola basso non si fa male cadendo, chi vola basso non si fa male, chi vola basso non si fa male cadendo, chi vola basso non si fa male, chi vola basso non si fa male cadendo. Ah, è per te.